Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, la proposta è arrivata ieri sera, lo avete sentito nei nostri giornali radio. Dunque, la proposta del governo greco, soprattutto quella inviata ai creditori, è stata giudicata completa dal presidente dell'Eurogruppo Jerome Dijsselbloem. La notizia è decisamente positiva. Rimette davvero la crisi greca in una prospettiva di soluzione che dovrebbe essere trovata entro il vertice di domenica, forse addirittura domani. Insomma, fonti UE hanno intanto indicato che se ci sarà accordo all'Eurogruppo di domani con la Grecia, con ogni probabilità non ci sarà neanche bisogno dell'Euro Summit. Ma sentiamo da Valentina Furlanetto quali sono i contenuti dunque del piano greco. Nelle 13 pagine del boccone amaro che Tsipras vuole far mandar giù al Parlamento di Atene ci sono innanzitutto le privatizzazioni del porto del Pireo e degli scali di Salonicco, degli aeroporti regionali e del vecchio aeroporto Ellenikon. Niente da fare invece per la DEI, il monopolista dell'energia elettrica. Tsipras avrebbe puntato i piedi. Un altro nodo controverso era quello dell'IVA. Atene ha in definitiva accettato di portare dal 13 al 23% l'IVA sui ristoranti, ma ha ottenuto di mantenerla al 6% per medicinali, libri, spettacoli e al 13% quella per gli alimentari di base, l'elettricità e anche gli alberghi. Eliminati dal 2016 i privilegi fiscali per le isole più turistiche. Salgono le tasse sui beni di lusso dal 10 al 13%, quelle sulle imprese dal 26 al 28% e vengono abolite le agevolazioni sulla benzina per gli agricoltori e i trattamenti fiscali preferenziali ad agricoltori e armatori. Alla difesa vengono portati tagli da 100 milioni quest'anno e da 200 il prossimo. Sul fronte pensioni, via quelle anticipate, creando forti disincentivi e penalità. L'età pensionabile è innalzata a 67 anni a partire dal 2022. Atene prevede poi un abbandono progressivo del contributo di solidarietà alle pensioni più povere entro il 2019. Viene alzato poi il contributo sanitario per i pensionati dal 4 al 6%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Speriamo di non rivederci anche domenica, ha detto il premier Matteo Renzi durante la conferenza stampa che ha fatto seguito all'incontro col primo ministro irlandese Enda Kenny. Ovviamente il senso di questa frase è perché questo non vedersi domenica, non arrivare all'Euro Summit, significherebbe che appunto domani già il via libera da parte dei responsabili economici e soprattutto in particolare della moneta unica, cioè l'Eurogruppo, che lo ricordo è l'organismo presieduto da Jerome Dijsselbloem che ha la responsabilità della tenuta dell'organizzazione dei 19 paesi dell'euro. Ma allora sentiamo uno stralcio dell'intervento di Matteo Renzi al termine dell'incontro col primo ministro irlandese. Abbiamo discusso della necessità di fare le riforme strutturali. Noi oggi abbiamo dei dati molto molto importanti in Italia, un'ulteriore dimostrazione che facendo le riforme le cose cambiano. I dati della crescita della produzione industriale sono ancora molto bassi rispetto a quello che noi siamo convinti che potrà essere fatto, ma sono molto più alti del recente passato, sono veramente il segno di un'inversione. Questo perché? Perché quando si fanno le riforme poi le cose cambiano e lo dimostra oggi il dato sulla produzione industriale, lo dimostra il dato sull'occupazione, ma lo dimostra soprattutto l'esperienza irlandese, dove abbiamo visto come la globalizzazione possa essere un grande asset per quel paese e non un problema. Abbiamo discusso anche di questo, abbiamo discusso dei rapporti bilaterali delle nostre aziende, delle aziende irlandesi, e abbiamo naturalmente affrontato le questioni di maggiore attualità nel panorama europeo, la vicenda greca. Noi speriamo di non rivederci anche domenica, questo vorrebbe dire che l'accordo potrebbe essere fatto nella giornata di sabato direttamente dai ministri dell'economia, senza bisogno di un ulteriore summit. Domenica abbiamo discusso delle questioni di politica estera, dalle Mediterraneo alla partnership orientale. Ecco dunque la posizione, l'auspicio di Matteo Renzi e non solo. Direi che con questo è tutto, aspettando l'esito dell'incontro dei ministri appunto dell'economia e delle finanze di domani. Naturalmente tutti gli aggiornamenti come sempre su Radio 24. Un saluto a tutti voi e un buon fine settimana. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.